Veni a dammi sa mano, sfortunato, tu eses digno d'esisti, mamma mia. Lo tendendo in un mare di angustia, gusto vergine coro ha smeritato. Bene dammi sa mano, bene mi sa mano sfortunato, tu es il degno maro, tu es il degno de te, mamma mia, lo tendendo in un mare, lo tendendo in un mare di angustia, questo vergine coro, ma vergine coro, questo vergine coro, ma questo vergine coro, vergine coro, questo vergine coro, smeritato, canta voltas pro me, io e pro me, canta voltas pro me, ma sono niente guda candida, guda candida, sono niente guda candida, Maria, chi des presente, ma chi des presente, chi des presente a te, sotto lugare essa, cari essa, sotto lugare essa, sei amato, sotto lugare essa, io sono guda gamma, scaro fiore, che abbandona ridente, ma ridente, che abbandona ridente sul giardino, prodi baghele ma prodi baghele me ne posso sore prodi baghele de me ne ma de me ne prodi baghele de me ne posso sore veni d'un canon beva veni d'un canon beva se non beva veni d'un canon beva se in pivino fate uno sogno ma uno sogno fate ne d'uno sogno fritti sa destra ma fritti sa destra fritti sa destra e ho so guda gamma scaro fiore che abbandona ridente sul giardino pro di vaghe de me ne possessore. Veni dunca non vivas in pivino fatte di un sogno di amore, vritti sa destra, sa moro su seno. E fritti sa destra, sa moro su seno.